Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Bravissimi tutti quanti, eccetera, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'ovvietà. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrat. Davide, mi segnalano che eri in bagno a fare la popò, a fare la cacca. Beh, io adoro la cosiddetta glasbow, cioè la trasparenza di questa radio. Cioè tu sei andato poco prima di andare in trasmissione, sì. Sei andato in bagno in camera, in un albergo lussosissimo, no, dove sei. Normalissimo. Un albergo lussosissimo e hai sostanzialmente cagato. Ho dal 18:38 espletato quelle funzioni che il 99% degli italiani. Ma com'era? No, di che era buona, cioè hai mangiato bene o no? Mi hanno fermato un po' di amici, un po' di persone, sì, che sono qui. Mi hanno detto, ma sai che il signor Cruciani alle volte fa delle domande che dimostra che proprio il gusto dell'orrido. Bravo, mi hanno detto, bravissimo. No, però voglio capire questa cosa qua, sì, com'era? Ma chi è che te l'ha detto? Com'era la tua cacca? Com'era la tua? No, sono interessato perché voglio capire come hai mangiato. No, oggi ho mangiato malissimo. Beh, stamattina ho fatto colazione a casa tua perché ho dormito da te. Adesso non andiamo nei particolari dettagli. Perché se mi tiri, amico mio, perché se mi tiri in ballo, io adesso canto. Perché ieri ho dormito a casa tua, tra l'altro, scena agghiacciante di questa persona di servizio che gira in casa, nudo, a casa tua, con una palla al piede, con una catena e una palla al piede, che continuava a dire da tolle Cruciale, e tu lo frustavi. Lui stamattina ci ha portato questa colazione meravigliosa in terrazza, di cui ho le foto che tra poco pubblicherò. Tu sei sceso stamattina capire come una fatto vecchia checca zia, no, adesso sì, parlo vabbè. Io come una vecchia checca zia, sì, sì. Sei sceso giù e mi hai comprato croissant ottimi, peraltro hai fatto una spremuta d'arancio buonissima e mi hai servito la colazione del tuo terrazzo. Sì, però voglio capire una cosa, al di là di questi dettagli, così come ma è vero tua... che ho dormito da te ieri sera? Sì, o no? È vero. È vero che stamattina mi hai portato la colazione in terrazzo o no? È vero, sì. Com'era la cacca? Com'era la cacca? Ecco, ci ho detto poi che altre no, com'era? Voglio capire com'era, era basta, normale. Poi passiamo ad altro. Com'era? Solida, sciolta, com'era? Normale? No, era. Ci sono problemi? Non ci sono. No, ti ringrazio. Non c'è nessun problema. Ti ringrazio. Fate da questo punto di vista. Sì, lasciatevelo dire. O hanno scarcerato il rom, uno dei rom che era nella macchina che a 180 all'ora ha investito e ucciso la signora filippina, la colf filippina. Bisogna dire che questo ragazzo rom di 19 anni non è provata l'accusa di omicidio colposo, dunque per adesso scarcerato. Sentiamo la sorella. E si è libero a piedi? Sì, mi ha detto l'avvocato Antonio Goliotta e Ciotti. Ve l'aspettavate questa notizia che usciva subito? No, per la verità no. Però siete contenti? Siamo contenti, grazie a legge, come è andata, in legge ha deciso, perché era un incidente, doveva succedere a tutti. Poteva succedere a tutti, grazie a legge è fuori. Devo dire che c'è una perversa fissazione per la cronaca minuto per minuto dell'incidente provocato dai rom. Cioè, si vuole. Se ne sei accorto? No, bravo. Ma è bellissima questa se cosa qua. Ne accorto pure il cinico Cruciani. No, bravo. Ma è stupenda questa cosa, bravo. È bellissima, la trovo meravigliosa. Cioè, no, bisogna. Hai fatto bene a farlo notare, bravo. No, bisogna sapere minuto per minuto quello che succede ai signori rom protagonisti dell'incidente di Roma, bravo. Dove a 180 all'ora è stata investita una Golf filippina che ci è rimasta secca. Questo perché lo viene. Con il ferimento di un po' di persone. È un po' strano, secondo te, questo o no? Non lo so, comunque sentiamo un po' la popolazione. La solita voci Vox Populi raccolte dalle varie trasmissioni italiane. Sentiamo, intanto sentiamo. Hanno arrestato i tre rom. Lei che ne pensa? La pena di morte. La pena di morte. Certo, che a chi ruba gli tagliano una mano. I topi! I topi più ne ammazzi più ci stanno! Più gli butti il veleno, più topi ci stanno in circolazione! Fanno figli, figli, figli! Però ragazzi, non possiamo parlare sempre dei rom, per cui stamattina mi sono un po' rilassato dopo la dipartita di, anzi no, c'era ancora Davide in realtà a casa mia, purtroppo c'era ancora Parenzo che non se ne andava perché doveva prendere un treno per andare a Santa Margherita Ligure, non se ne andava, e siamo a un certo punto capitati con la televisione facendo zapping sulla presentazione della nuova livrea di Alitalia. Allora, signori miei, io devo dire che quelli che hanno avuto l'appalto, la commessa per il disegno della nuova livrea degli aerei all'Italia sono dei geni, perché non hanno fatto un cazzo, nulla, non è cambiato nulla, niente. Io sono diventato presentazione nuova livrea all'Italia, cazzo, mi aspettavo che il simbolo dall'Italia, certo. la solita ala così tricolore fosse cambiata, cioè la nuova livrea dell'Italia, novità, dopo tanti anni cambia il simbolo dell'Italia, minchia, pensavo, ho visto, io c'ho tutto questo aereo che veniva scoperto davanti al signor Montezema, signor D'Amico, c'era che presentava, che ha fatto una gaffa, adesso ne parleremo, no, niente, uguale. Cioè, io voglio sapere quanti soldi hanno dato a questi signori. Ma questi signori sono dei geni, però. Ma sono dei geni totali. Non è cambiato un cazzo. Guardate, fate il paragone tra gli aerei vecchi e quelli che saranno nuovi, i nuovi simboli dell'Italia. Nulla, non è cambiato niente. Io sono diventato pazzo, ma mi sono divertito perché penso che davvero questi qua sono dei geni. È cambiata la striscia centrale verde degli aerei dell'Italia, sì, che non c'è più. E poi forse un tricolore che va sotto dopo la coda, no? Ma che va sotto. Ma dove va? Uguale. Senti il signor Montezemolo che dice, sì. Il signor è straordinario, gli aerei color perla. Amico mio! Questi nuovi aerei danno un segnale prima di tutto di forti investimenti economici e poi di grande fiducia nel futuro. L'esterno mi sembra molto bello con questo grigio, con questo bianco perla, con un ulteriore rafforzamento del storico marchio della coda all'Italia. Con questo nuovo colore grigio, poi si è corretto, colore bianco per, è come il coso, è come quella mitica intervista a Lapo Elkan, là, come si chiama? Posso no, lo Shatush, che cos'era là? Sì, il camouflage. No, ma posso dire sommessamente a Montezemolo una cosina? Sì, puoi sommessamente, dire, con grande sobrietà. Puoi dire. Il grigio, il colore, non me ne frega una mazza. Importante è che l'aereo arrivi puntuale. Viva! Oh, vabbè, là D'Amico ha fatto una gaffe. Ma non era proprio una gaffe. Beh, insomma, dai, invece di marchio ha detto no, maschio. No, era un lapsus. Sì, beh, ma no, lapsus non credi. Il rafforzamento del maschio invece del marchio. Vabbè, dai. Nel segno del cambiamento, del rafforzamento del maschio, del marchio. Presidente, la prego. Presidente, la prego. Non diremo niente a Gigi. No, anche perché chi mi conosce bene sa che se mai avrei detto il rafforzamento della Women Power. Va bene, però io vi voglio far ascoltare anche quello che ha detto Renzi, perché è veramente una cosa incredibile, per carità. Poi bisogna, in questi casi sono delle situazioni formali dove bisogna anche dire un po' di cazzate, un po' di, bisogna spargere ottimismo a destra e a manca, per carità. Però qui si è raggiunto, forse non aveva niente da dire, è andato a braccio, no? Spero che non si sia preparato, ecco, io quello spero. Spero che queste cose non siano preparate. Io vorrei fare quello che ho sempre sognato di fare, vorrei fare lo steward, l'hostess no, perché, e vorrei chiedervi di fare la cosa che io mi dimentico sempre di fare appena salgo su un aereo. Vorrei chiedere di allacciarvi le cinture. Vorrei chiedere di, con la gentilezza che vi contraddistingue, perché lo fate sempre con grande gentilezza, ma vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia? Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture. Alitalia decolla. Ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia. Il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola l'Italia, viva l'Italia. Non è un gioco di parole che farà contento Crozza. È l'unica vera chance che voi avete. Io veramente spero che queste cose qui, che non funzionano ormai, no? Si sa che non. Spero che questa cosa sia una venuta così naturale, perché magari presto tra una cosa e l'altra è andato così alla presentazione dell'Italia, senza prepararsi, senza discorsi preparati, senza spin doctors vari. Perché se veramente c'è la metafora dell'allacciatevi le cinture, qui si decolla il decollo dell'Italia, il decollo dell'Italia, divento scemo, eh. Vado al manicomio. Se uno gli ha scritto questa roba qua, vado pazzo, pazzo. Vabbè ragazzi, però sabato ci sarà il Gay Pride a Verona, tu dici che c'entra, no? Ci sarà il Gay Pride. Beh, nella città di Tosi. Il bene. Gay Pride a Verona, mi hanno anche chiesto di partecipare, purtroppo non sarò lì. Partecipare dunque. Come gay? No, come gay, Pride. Partecipare come bandiera del Gay Pride, come sostenitore. Come sostenitore del matrimonio gay, come sostenitore. Perché non vai, io non posso sabato, purtroppo che sono con mio figlio, anzi per fortuna che sono con mio figlio, mia moglie. No, dillo. Vabbè. Anche purtroppo, dillo anche purtroppo, due no, coglioni, fortuna, famiglia, due palle. No, no, anzi, voglio tornare. Comunque no, c'è un signore, da morire, c'è... ma se no vai con la bandiera della Zanzara. No, porta c'è Andro un... Mercù. No, che no, non posso andare. Parrocchia libera, no, non è la parola, non è gay, ti assicuro. Sì, ma no, lui, Andro, non è frocio. Tutte e due, ma non è frocio per niente, sì, ma lo dico. Sicuro. Vabbè, un signore si chiama, conosciamo bene, si chiama Maurizio Ruggero. Oh, Maurizio mamma. Ruggero, sì, oh, Maurizio mamma. Ruggero. Credo che sia dell'associazione, com'è che si chiama l'associazione? Parezzo? Sacrum Imperium. Sacrum Imperium, che è veronese, peraltro, veronese. Sì, sì, sì. Il quale vuole fare un rosario riparatore. Cosa? Un rosa, senti il Padre Eterno, senti, esatto, perché dobbiamo, oltre che fra poco lo chiameremo anche, perché voglio che renda conto davanti a Dio, sì, di queste parole, deve rendere conto davanti a Dio di queste parole. Ruggero, sentiamo. E il Padre Eterno, state tranquillo, che non dimentica nulla anche dell'orrore che verrà fatto. Certamente sarà un castigo, però noi facciamo apposta la riparazione, eh? Perché facciamo la riparazione attraverso il Santo Rosario di quello che viene fatto da parte dei sodomiti? Perché in questa maniera storniamo i castighi sulla città. Ringraziateci con quel male che fate. Le relazioni gay sono relazioni ignominiose. Sono relazioni ignominiose. Cosa vuole dare diritti a relazioni ignominiose? Perché la per lei è un reato addirittura, come era in Inghilterra fino a... Ma guardi che era anche nella Serenissima, venivano bruciati. Beh, nella Serenissima. Senza andare troppo indietro, in Irlanda fino a 30 anni fa. Ma faccio notare in Irlanda dopo 30 anni. Quando è pubblica, certamente, sono favorevole. È un'enorme bestemmia. Non si può negare che ci sia un'enorme bestemmia dietro tutto questo. C'è un'enorme aggressione a quella che è la legge naturale e quindi anche divina, per i suoi 10 comandamenti. Non si può negare che ci sia una parata sodomitica che ha aspetti scandalosi, avrà sicuramente aspetti scandalosi. Spero non blasfemi, almeno questo. Il traffico è il problema. La Zanzara. Ruggero? Eccomi qua, caro Cruciani. Ma scusami, nome, nome, vero? Che proprio vergogna. Cruciani per modo di dire. Cioè, in che senso per modo di dire, scusami? Perché se uno fosse Cruciani serio, dovrebbe essere per la croce e quindi per la difesa di certi valori. Qua invece, come al solito, vi schierate supinamente, è proprio il caso di dirlo. Scusa, riguardi ma... tutti... Sì, io sono, sai, riguardi sono... tutti quanti gli invertiti, io so io. Come invertiti? Che vuol dire invertiti? L'invertitismo organizzato. Ma io non riesco a capire che cosa vuol dire invertiti. Ancora non riesco a capire. No, ancora con questa cosa di invertiti. Me l'hai spiegato mille volte. Per sei me... tu invertito nel cervello, però. Cioè, siamo praticamente allora al punto tale che voi siete così corrotti che non riuscite neanche a capire la differenza che c'è fra una relazione normale. Sì, normale. Naturale. Che tu non hai neanche mai avuto, secondo... relazioni. Che tu non hai mai avuto, comunque. Secondo che tu non hai avuto. Vostra, il vostro linguaggio, e invece una relazione di tipo sodomitico. Sì, ma io non capisco la differenza. No, perfetto, ma insomma, diamo questa notizia agli spettatori. No, io capisco tu che non c'è... potresti neanche parlare di questi temi perché non conosci l'azienda, né una né l'altra, né l'azienda femminile né l'azienda maschile. Non conosci la parrocchia, come allora, fai a distinguere? Questo ragionamento fulminante di Parenzo assomiglia a quello del drogato che rimprovera quello che non si droga di non conoscere la droga, cioè, ah, perché la droga fa male, non puoi saperlo perché non ti droghi. No, ma non... che razza di sciocchezze no, sono, amico mio, Parenzo, tu... ma dai, su. Ma tu non conosci il sesso femminile, non lo conosci, non conosci. Dunque, allora, una vaga idea ce l'ho anch'io. Sì, però non hai mai provato, non hai mai provato un ra, come si dice, non hai mai provato allora, un ra. Io sono cioè, uno di quelli che cerca di rispettare i 10 comandamenti. Se uno non è sposato non ha relazione con il sesso femminile. Ho capito, amico mio, però non mi dirai, non mi dirai che è normale arrivare alla tua età senza avere toccato una donna, amico mio. No, a me sembra molto anormale che voi altri invece, come al solito, non mi dirai che è normale non essersi mai masturbati alla tua età, amico mio. Come voi altri siete persone corrotte, ovviamente non potete concepirevi sia qualcuno che cerchi di rispettare la legge naturale. Vabbè, e questo qua uno, ognuno fa i cazzi suoi, tu sei così, sei malato, pazienza. No, e no, non invertiamo i termini. Beh, amico, in maniera freudiana. Uno che non ha mai fatto sesso a oltre 50 anni o meno. No, momento. Non è che chi rispetta la legge del Padre Eterno, che poi è la legge naturale, e quindi pratica anche per quanto può la continenza e la castità. No, io voglio capire, continenza o castità. Siete voi che siete fuori. Va bene, però, ma io non ho capito questa cosa di bruciare, che nella Serenissima bruciavano i gay. Tu veramente li bruceresti? Dunque, allora, intanto... No, voglio capire se li bruceresti o no adesso, lascia perdere. Io vorrei poter rispondere, però. Dimmi, allora, dimmi, nella Serenissima, come ovunque, la pena della sodomia, parliamo della sodomia conclamata e pubblica, era il rogo, non è mica colpa mia. D'accordo, era il rogo, ma nella Serenissima, d'accordo. Ma come rogo? Non solo nella Serenissima, era ovunque, anche nel Regno di Francia. Vabbè, ma ho capito, ma tu li vuoi bruciare adesso o no? No, io non pretendo che si bruci nessuno, però secondo me ci vuole una sanzione. In carcere, qual è la sanzione per i froci, secondo allora, te? Quale sanzione ci deve essere? Lasciamo che sia l'autorità civile di una restaurata civiltà cristiana. No, a non ci, se non c'è pena. Nessuna civiltà cristiana, secondo te qual è la pena che dovrebbero avere? La galera? Una multa in denaro? Vabbè, ma avrei un'idea, no? C'è la multa in denaro, che ne so, la fustigazione in pubblica piazza, cose di questo tipo. Per esempio, allora, per dire, la bestemmia era a Venezia punita con la morte. Ma lascia perdere, non stiamo parlando della bestemmia. Con dei colpi di staffetta. Questo è per dire, ecco, che dunque, realtà, dei colpi può andare bene tutto, sì. Basta che ci sia una pena, sia sanzionato. Dunque tu daresti delle bastonate in pubblica piazza a un frocio? Ma potrebbe, io sono anche favorevole a che in determinati casi ci siano anche pene corporali, non so se questo pene sia corporali, pene corporali per i gay, pene corporali per i gay, ma dai, Maurizio, su, ma di che stai parlando? Ma comunque ma cosa tu più la cosa più importante qual è? È sempre, no, un momento, la cosa più importante è sempre la conversione. No, siete voi che siete pazzi, questo è un vizio. Ma è vero, no, che, è vero che tu farai, allora, non ho capito, il rosario riparatore. Non puoi consentire di dirgli che cos'è robe. Il rosario riparatore? Allora, scusa, il non rosario è una preghiera che si fa alla Madonna, forse l'avrete saputo. Vabbè, questo lo sappiamo, ma che c'entra il rosario riparatore? No, non era scontato che lo sapeste, vedendo il livello di cristianizzazione cui siete, non era scontato questo. Ma io me ne fotto, io sono ateo e me ne fotto, io sono ateo e lui è ebreo, capito? Io sono ateo e lui è ebreo, ce ne sbattiamo i coglioni di queste cose. Ma quella coppia, per quello che infatti non era scontato, dico. Già il fatto che sappiate l'esistenza del Santo Rosario è importante. Se lo praticaste, lo diceste, sì, avreste infinite grazie, perché la Madonna dice che tutti coloro che diranno, sì, il Santo Rosario riceveranno tantissime grazie, incluso se lo dicono ogni giorno. Ma scusa, tu durante il Gay Pride di sabato, no? Questa sfilata meravigliosa di omosessuali, non omosessuali, gioia, indigna parata sodomitica. Ma che parata sodomitica? Ecco. Capito? Ma i sodomiti sono quelli che semplicemente fanno all'amore, cioè uno lo prende e l'altro lo dà, capisci? Qual è l'amore intanto deve essere secondo, evidentemente, dei parametri di carattere morale. Non è che uno. Ma chi decide questi parametri di carattere morale? Era un assassino seriale, oltre che sodomita. Se li mangiava, cioè, oltre che averci rapporti, ma che c'entra? Li ammazzava e se li mangiava. Ma non ho capito, perché è una forma di amore meraviglioso. Ma perché tutti i gay sono così? Non ho capito. Esistono anche eterosessuali. No, saranno tutti così. Però era per farvi vedere che se entrato. Cioè, secondo te un gay è talmente perverso che la maggior parte sono, che ne so, pedofili, violenti? Dimmi. No, secondo me, invece, voi dovreste applicare il concetto e la parola di amore a una relazione che rispetti l'ordine naturale e la morale, perché altrimenti se no... Amico mio, l'ordine naturale, Ruggero, l'ordine naturale, l'ordine naturale... No, ma ha detto una cosa gravissima. Ma scusa, si può guarire dall'omosessualità, siccome poi c'è tema che... Allora, e in che modo, scusa, come si può guarire? Allora, essendo un vizio e non una malattia, perché non ho mai detto che era malattia... Un vizio. Allora, un vizio, come tali i vizi, sì, no? Si possono anche... Come li cureresti te? Ma no, la medicina è principalmente, cioè, se tu avessi un figlio gay, no? Se tu avessi un figlio, non ce lo puoi avere perché non hai mai trombato in vita tua oltre 50 anni, va bene, d'accordo, quello è un tuo problema. Ma potrei persino adottarlo, forse. Vabbè, comunque, al di là di questo aspetto, no, ma è semplice la cosa. Cioè, il rimedio, cioè, basta una preghiera, che cosa? Basta un ritiro spirituale, no, che non cosa? È che basta, cioè, la vita spirituale. Basta o no? No, per me, allora, certo che basta, nel senso che se la vita spirituale è seria, dai, la persona si può emendare. Allora, voi due, parliamo voi due, no? Voi due siete dei pedali da forca, praticamente. No, dei pedali da forca, siamo persone normali, siamo un po' esistereste, no? Io sono un po' più vizioso, Voi due, in società tradizionale, non esistereste, giustamente pendereste da qualche parte. Bene, in società tradizionale, però, voi due non sareste così, perché? No. Perché attraverso i rimedi spirituali sareste molto migliori. Ma non vogliamo nessuno. Ma io non voglio rimedi spirituali, amico mio, non li voglio. Allora cosa vuoi? Vai all'inferno, figlio mio, cosa vuoi ti dico? Ma non vai all'inferno, voglio dire. Ma scusa, ma tu, ma abbi pazienza, ma tu metteresti un omosessuale alla gogna, questo è il punto, alla gogna. Allora, per paradosso, mentre voi ma perché non scappi da Verona sabato, allora, invece? Mentre voi diabolicamente li esaltate perché vi piace il vizio contro natura e perché volete che il peccato non sia soltanto quello normale, ma anche quello proprio. No, scusa, non ti sento. Io sono invece favorevole alla loro redenzione spirituale, perché sì, attraverso la vita spirituale, no, questi possono emendarsi, esattamente come ma il dai, libertino eterosessuale può emendarsi, ma dai, così su, possono e debbono emendarsi anche i libertini. Ma sei fuori di testa, ma scusa, ma adesso, in tutto questo tempo, non ci sentiamo da marzo, hai fatto qualcosa di sessuale o no? Io rispetto. Da marzo in poi, sono passati cerco tre mesi. Sono passati tre mesi. Sei riuscito a fare qualcosa di sessuale nel frattempo? Mi aggiorno sulla tua vita. Sei riuscito nella tua vita da marzo a qua, a essere una volta tanto continente e casto? No, sei riuscito qualche volta? No. Allora no, non puoi parlare, figliolo mio, perché sei fuori con le carte, sei malato. Questo sì, veramente sei malato. Tu quanti anni hai? Scusa, ma quanti anni hai, Maurizio Ruggero? Io quanti ho anni 58. A 58 anni tu non hai mai scopato. Cioè, ma è una roba pazzesca. Non conosci la materia, non conosci, non puoi parlare di queste cose. Non conosci. Voi che dovete rendere conto della vostra vita cattiva a un confessore, dai, o alle persone. Comunque io voglio capire. Voi non devo rendere conto di nulla, voi non siete confessori. Allora, amici omosessuali di Verona, amici omosessuali di Verona, Maurizio, io adesso do il tuo numero di telefono a un sacco di gay di Verona. A un sacco di gay di Verona. Perfetto. Do il tuo numero di cellulare, capito? Perfetto, però non posso pensare. No, diciamolo, dillo tu il numero, così lo diamo a un sacco di omosessuali di Verona. Dillo tu pubblicamente il tuo numero di telefono. No, il mio numero sta su internet, chiunque lo può vedere. E diciamolo allora. Diciamolo, l'omofobo di Verona, dà il suo numero di cellulare. Amici allora, gay, chiamatelo, dimmi il numero. Qual è il tuo numero? Io te lo dico anche perché siccome io me ne infischio completamente. Vai, dimmi il tuo numero di cellulare. Posso prendere i tempi che voglio? Stiamo per chiudere, Maurizio. Allora, stai al tuo posto, calma, stai al tuo posto. No, ma che sto al mio posto? Dai, che devo chiudere, c'è la musichetta. Dimmi. Dai il numero. Ehi, voi due malvissuti, state al vostro posto. Dimmi quando voglio darlo io, e se voglio darlo io lo do il numero. Quando vogliono chiamarmi lo trovano su internet, il mio numero è 347 360 3084. Me ne infischio allegramente delle vostre affermazioni. Io sostengo la dottrina naturale sempre. Sì, naturale sempre. Perché non esiste. I gay l'omofobia. Sono viziosi, malati, sono viziosi. Non esiste l'omofobia, esiste purtroppo invece il vizio contro natura che comporta. E se a uno piace prenderlo, dietro? Appunto, questa è sodomia, esattamente la sodomia. Che va punita, che va punita. Allora, vabbè, quindi, ragazzi, amici, c'è il giornale radio delle 19, ci sono notizie più importanti, ciao. Viva i fraci, viva i fraci! Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Stai al tuo posto. Ehi, calma. Ehi, voi due malvissuti, state al vostro posto. Amici proci di tutta Italia, amici gay, adesso vi diamo un numero di telefono. Vi diamo il numero di telefono di un signore che sostiene, ma l'ho dato lui, il numero di telefono personale, cellulare di un signore. Di un invertito al cervello. Di uno che sostiene che i gay sono invertiti, che sono viziosi, che sono sodomiti e dunque vanno addirittura, non dico bastonati, però qualche pena corporale forse ci vorrebbe. Insomma, sono quello che sono, il mondo è perverso, è malato e bisogna rispondere, secondo questo signore, solamente alla morale cattolica. Per questo durante il Gay Pride di sabato a Verona leggerà un rosario. Ora, questo signore, che è chiaramente uno che odia, che non sopporta l'omosessualità, non sopporta l'amore tra un uomo e un uomo, una donna e una donna, ci consegna il suo numero di cellulare. Dunque chiamatelo, cercatelo di convincere. Cercate di convincerlo che insomma non si fa così, non si dicono queste cose. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. No, diamolo ancora. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. Vabbè, andiamo a Milano, Daniele, vai. Ehi, che pensando? No, aspetta, Daniele, dai, non sento niente, su. Dai. Oh. Dai, dimmi. Ciao, allora, innanzitutto non si legge un rosario ma si recita, comunque. Vabbè, leggere, recitare un rosario, no, non è la stessa cosa. Vabbè, poi, allora tu ti definisci ateo e sì, però amico mio, devi parlare non all'auricolare, devi parlare non con il tele... ho capito, ma sentiamo male, non dai. Non sono all'auricolare. Allora, secondo me tu non sei ateo, tu sei un discepolo del relativismo. Sì. E anche quell'altro. Ma perché... voi non ammettete che esiste l'uomo e la donna? E chi è che non ammette che esiste l'uomo e la donna? Scusa. L'uomo e la donna, dicesi uomo, colui che è dotato di pene, donna, colui che è dotata di vagina, e il resto è tutta una perversione, come dice il buon... Cioè tu sei d'accordo con quello che dice Ruggero, in sostanza? Assolutamente sì. Ah, sei d'accordo? Assolutamente sì. Vabbè, vatti a ricoverare, hai anche la voce uguale a quella di Ruggero, dunque direi che il ricovero è necessario. No, ma perché voi comunque non ammettete questa roba qua, cioè per voi è tutto relativo. Cosa c'è da ammettere? Tutto relativo, è tutto relativo, cioè se fra 20 anni venisse fuori che 2 più 2 fa 5, il popolo... Ma che c'entra il 2 più 2? Ma certo, così. 2 più 2 fa 5 con il fatto dei gay o delle... L'uomo e la donna. Ma hai sentito quello che diceva prima o no? Hai sentito quello che diceva prima Ruggero? Io ho sentito solo il passaggio del fatto che sia una perversione, lo ammetto, poi non so... Ah, è una perversione, perché tu non hai perversioni in vita tua? Assolutamente. Tu non hai perversioni sessuali, Daniele? No, No, io pratico con le donne, cioè non ho perversioni sessuali, assolutamente. Non ho capito perché se un uomo fa l'amore con un uomo è una perversione sessuale. Ma allora io avevo già chiamato una volta e no, ma io voglio capire se un uomo, se due donne la toccano è una perversione sessuale. È una perversione, cioè, è una perversione, comunque, ma è un'immagine meravigliosa. Tra l'altro ci colpisce molto di più questa cosa. Questa è una riflessione da fare. Stai zitto un attimo. Questa è una riflessione da fare. Una riflessione in realtà, in realtà, adesso più avanti vi manderò un qualcosa del mitico Montanini su questo, ci colpisce, ha ragione però, ci colpisce molto di più l'immagine di due uomini che si inchiappettano piuttosto dell'immagine di due donne che se la leccano, diciamo la verità, scusate il gioco. Io non riesco molto a seguirti su questa Che sei nel covo di Confindustria là nella no, nel covo non riesco, diciamo, a seguire, sì, però è vero, ci colpisce molto di più dal punto di vista sociale un'immagine, il convegno dei giovani industriali. Il covo di Confindustria, non ho detto il covo non è solamente dei banditi, cioè il covo è anche un locale, per esempio, da quelle parti lì c'è un locale che si chiama il covo, per esempio, per cui ci sarà nei prossimi giorni il signor Totti domani, credo che fosse intercentremo la Zanzara. Volevo dire a Totti che oggi sono venuto da Milano alla Liguria, sì. 40 minuti di ritardo il treno. Che c'entra Totti, scusa, quello non dipende da Totti, però. No, chiedo a Totti di mettere a posto tutto, però qui domani chiedilo. Primo, 40 minuti di ritardo. Secondo, aria condizionata rotta, amico mio. Vabbè, brutta, ma che c'entra Toti? Che c'entra Toti, no, col treno? Tu hai ritardo e l'aria condizionata. Ma chiama More, chiama Moretti, come si chiama adesso quello delle ferrovie? Manco lo so. Vabbè, chiama quello delle ferrovie, chiama le ferrovie locali, non so. No, no, lo voglio annunciare qui, perché c'erano 40 minuti di ritardo. Allora, la cosa è questa: Parenzo che deve raccontare i fatti suoi. Oggi ci ha detto primo che ha cagato. Secondo, la trasmissione con la mia evacuazione. Secondo, che ha dormito a casa mia. Terza cosa, adesso ci dice che il suo treno che partiva da Milano e arrivava in Liguria è arrivato con 40 minuti di ritardo, vabbè. A Santa Margherita Ligure. E in più non c'era l'aria condizionata. No. Benissimo, signori di Trenitalia. E non potevi tirare giù i finestrini. Signori, ma no, quello ormai non si può da tempo, non ti voglio segnalare. Tutto bloccato con una vecchietta. Certo, agonizzante, c'era la vecchia agonizzante. Una vecchietta, una vecchina. Vabbè, molto signori di Trenitalia, fate qualcosa per questo treno. Gianni dalla provincia di Alessandria, vai Gianni. Vergogna pazzesca. Pronto? Vai Gianni, dimmi. Sì, volevo dire, a parte che non capisco perché Parenzo ce l'abbia solo con quelli degli altri partiti, ma il PD li difende sempre. Comunque volevo solo, adesso ce l'ha col treno, cosa c'entra Toti col treno? Comunque volevo dire che no, è un appello quando... a Toti. Sì, vabbè. Neogovernatore, che bravo. Sì, è un governatore, Toti, da quando? Beh, lei non sa ma un cazzo. Ma lei dove vive, scusi? C'è nel pianeta degli imbecilli? No, lei dove vive? L'hanno votato l'altro giorno, che cazzo deve fare? Ho detto appunto, mio amico Toti, un appello, appena si insedia si occupi dei treni regionali. Col treno, è mica Trenitalia, glielo vado a dire con quello là che prende, ha preso 700 e passa 1000 euro. Solo per aver venduto la Breda ai cinesi. Ma cosa dice? Non era una critica a Toti, era il nuovo governatore. Un appello. Vabbè, Gianni, allora che vuoi dire? Cruciani, volevo dire una cosa a Renzi. Sì. Volevo dire che quando hanno fatto Pinocchio il burattino, no? Non sì, quando poi è venuto vivente, ecco, ne rideva e ne parlava ed era molto simpatico. Renzi invece ride e dice cazzate. Poi adesso vorrei sapere come farà a trovare la scusa, come ha fatto delle pensioni, che non ci sono i soldi, con questa legge nuova della Costituzione lì, che hanno fatto oggi, che deve pagare 3 anni di arretrati. Vabbè, poi vedremo come farà. Dove andiamo? Francesco, provincia di Roma. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Io volevo soltanto fare una piccola parentesi riguardo alla solita questione dei Rom, ma non sull'incidente. Il fatto è che ieri Parenzo diceva che non esiste una cultura Rom. Invece come non esiste una cultura Rom? Che vuol dire? Di passaggio lo diceva ieri Parenzo. Vabbè, allora? Il fatto è questo, che in realtà esiste, come è noto, ma non perché lo dico io. No, una cultura Rom legata al furto, questo contestavo. Come legato? Contestavo il fatto che la Vulgata vuole che esista una cultura Rom collegata al furto, cioè i Rom per cultura rubano, questo contestavo. Vabbè, allora vai, forza Francesco. Beh, no, dunque a quanto pare anche la questione del furto ha a che fare con la cultura Rom, perché mi ricordo messi un libro anni fa. No, tra l'altro questa mattina Parenzo, a proposito delle nuove rivelazioni su Mafia Capitale, cioè i 44 arrestati, la mucca da mungere, eccetera, eccetera. Che cos'è che hai detto? Che cos'è che mi hai detto che bisognerebbe chiedere scusa ai Rom? No, dovrebbero, ma pensavo di dedicare un. Vabbè, me lo dici così, ma lo affrontiamo di petto. Bisognerebbe oggi chiedere scusa a tutti i Rom, in particolare i Rom ma di Roma. Dico, sei pazzo? Perché dalle nuove intercettazioni, che spero ne parleremo, no? Nuovi arresti che ci sono stati oggi a Roma, 40 persone, vediamo, che è scientificamente dimostrato come durante tutte le giunte, mica c'è scelta solo Alemanno, alcuni personaggi hanno sistematicamente rubato soldi che erano destinati a organizzare il fenomeno dell'immigrazione ai campioni. Vabbè, allora... Quindi bisogna chiedere scusa ai Rom. Perché dei ladri. Ma che c'entra scusa ai Rom? Ma è sbagliato proprio il fatto. Primo, innanzitutto erano soldi destinati. Hai visto cosa è successo oggi o no? Certo. Hai voluto aprire con le mie feci. Va benissimo, ti ringrazio di questo onore che mi dai. Dopo che hai aperto con questa grande notizia di oggi, racconta anche la vicenda delle della mega retata che c'è stata oggi, sempre nell'inchiesta di Mafia Capitale. Sì. Nuove persone coinvolte, politici di destra e di sinistra coinvolti che hanno rubato. Ma che c'entra? Ma non bisogna chiedere bisogna scusa a nessun Rom, scusa. Bisogna che questi qua vadano in galera. Ma quale scusa? È sbagliato scusa. Intanto. Bisogna ma è sbagliato bisogna che questi. Ma quale scusa? Ma è sbagliato che questi soldi. Io chiudo il collegamento e ma vi saluto. Senti, lo sai a Roma quanti soldi si spendono ogni anno per i Rom? 24 no, milioni di euro. 24 milioni di euro. Allora, l'inchiesta in corso, raccontata oggi dai giornali, con le persone arrestate allora? Questa mattina. Allora, di che cosa perché sono state arrestate queste persone? Sono arrestate perché ma qual è il filone? Perché... Mafia Capitale. Qual è l'accusa? Sì. quella di aver rubato soldi, sì, che erano su, destinati sugli immigrati, sui rom, che erano destinati a chi? A tutti, immigrati, rom, a tutti. Benissimo, ma... bisogna chiedere scusa ai rom e agli immigrati. Ma quando mai? Sì. Bisogna chiedere chi, senti, li avete rubato. Vabbè. Qualcuno ha rubato ai rom. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara. Ragazzi, ditemi voi se uno poi non si deve incazzare. Più volte abbiamo ospitato in questa trasmissione Giancarlo Galan, no? L'abbiamo ospitato più volte, anche scherzandoci, battagliando, ridendo, eccetera, eccetera. Amico, è passato un anno dall'inizio della vicenda delle tangenti per il Mose, uno scandalo pazzesco, con costi di quell'opera, a carico nostro ovviamente, aumentati in maniera esponenziale. Finiti in mazzette, finte consulenze, capite, eccetera. Poi il problema sono i 35 euro ai migranti. Ma che cazzo c'entra? Ma sono due cose diverse, dai. Hai capito il livello di ipocrisia e non dire cazzate, dai, delle su polemiche in questo paese? Allora, il Mose doveva costare... Perché meno. C'è un'opera pubblica che non si è fatta, sì, ancora, e che doveva costare 10, costerà 100.000, e ora il problema sono i 35 euro ai migranti e il wifi. Allora, doveva costare e meno di due... tu alla ruspa, sì, di Salvini o no? Ma non c'entra nulla, sono due cose diverse. No, c'entra, come? Perché doveva costare, stai zitto un attimo, doveva costare meno di 2 miliardi e invece per adesso ne ha inghiottiti 6,2, ma il punto non è quello. Ripeti la cifra. Da 2 a 6,2. Allora, molti di questi e finiti pare il costo sono i 35 euro ai miei. No, ma la cosa incredibile è un'altra. Andate a fare in culo tutti, dai. Aspetta, vai, la cosa è un'altra, la cosa, dai, è un'altra. Questo non c'entra niente, sono due problemi diversi. La no, cosa ma è un'altra. Non è diverso, sono i costi. David, dello mi stato fai dire questa cosa un attimo, invece di sbraitare su questa minchiata. Sempre i rom e gli immigrati in mezzo devi mettere. Allora, l'ex governatore del Veneto ha patteggiato qualche mese fa una condanna a quasi 3 anni di carcere, 2 anni e 10 mesi, e una confisca di 2,6 milioni di euro, sì, per tutto questo caso. Allora, la cosa incredibile, uno si domanda, no? Ma Galan, cui voglio bene, perché è una persona che, dal punto, sì, di vista, per le volte che l'abbiamo incontrato, ci ho parlato, sì, un sacco di volte, eccetera, poi si è scoperto che aveva preso, almeno lui lo ha messo patteggiando, delle mazzette. Che vuoi fare? Oh, nessuno è perfetto, ognuno di noi ha i suoi difetti, i suoi vizi, lui ha preso un po' dei soldi, vabbè. È ancora, primo, è ancora parlamentare, ma lo sai perché è parlamentare? Cioè non c'è la decadenza, perché lui ha patteggiato, ma in Italia si può fare opposizione al patteggiamento, andare in Cassazione. Cioè tu puoi opporti, tu fai il patteggiamento, poi ti opponi al patteggiamento che hai fatto. Ah, cosa incredibile! Ce lo racconta oggi Stella sul Corriere della Sera. Una cosa pazzesca. Primo. Secondo, è ancora presidente della Commissione Cultura della Camera. Non c'è nessuna norma in grado di cacciarlo da presidente, o comunque di deporlo, non so come dire, anche se non è un trono. È ancora presidente, c'è uno che ha patteggiato, sta a casa ai domiciliari. Non va mai in Parlamento perché non ci può andare essendo domiciliari, appunto. È presidente della queste sono le regole che ci sono. Beh, in a questo punto si potrebbe fare la commissione cultura e domiciliari da Galan. Beh, questa sarebbe una buona idea, direi. Almeno... questa sarebbe una buona idea. No? Io vorrei farvi risentire, però non sono fissato, poi parleremo di altre cose, potete intervenire su tutto, su Rom che sarà scarcerato di 19 anni perché insomma non lo si può tenere in carcere perché non ci sono prove di omicidio colposo, e potete parlare di quello che volete di Roma Capitale con i nuovi arresti, con queste frasi agghiaccianti che dimostrano, no, qual era la grande truffa dietro non solo i campi Roma, ma dietro soprattutto gli immigrati, eccetera eccetera, cosa che noi sosteniamo da tempo peraltro. Però signor Ruggero è un grandissimo omofobo di Verona, il quale sostiene queste cose. Ma adesso ci vorrebbe il matrimonio di serie C, che sarebbe praticamente una specie di Dico per tutti quanti, e poi magari ci mettiamo anche quello di serie D per i sodomiti. Non può chiamarli omosessuali, insomma, è il termine biblico. Perché dà fastidio, vero? Mi sembra che sia un termine che abbia un velo di disprezzo. Ma insomma, c'è un aspetto critico, ci mancherebbe. Il Padre Eterno l'ha distrutta col fuoco, non so, veda lei. Non si può negare che ci sia un'enorme bestemmia di fronte a questo, cioè un'enorme aggressione a quella che è la legge naturale e quindi anche divina per i suoi 10 comandamenti. Non si può negare che ci sia una parata sodomitica che ha aspetti scandalosi, avrà sicuramente aspetti scandalosi, spero non blasfemi, almeno questo. Ci ha dato prima il suo numero di telefono, vi prego chiamatelo e massacratelo. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. Allora, Walter dalla provincia di Modena. Eccomi, buonasera. Prego. Vai, ma prego che cosa? Ma hai chiamato tu, Walter? Prego. Sì, ma sì, certo. Siamo pazzi. Allora, sì, ascolti. Aspetta un attimo, dunque. Aspetta, fermo lì. Pronto? Sì, Maurizio Ruggero? No, è la seconda volta che mi chiama. Lei sbaglia numero. Ma come sbaglio numero? Sicuro che non è Maurizio Ruggero, ma l'ha dato durante la zanzara, l'ho sentito bene. No, senta, io non sono Maurizio Ruggero. Allora mi scusi tanto, ascolti la zanzara allora, mi scusi. È già 3-4 volte che mi chiama, prima l'ha chiamato una signora. Mi dispiace, sarà per un'altra volta, mi scusi. Buonasera. Sto Ruggero ha dato il telefono giusto, perché non vorrei che, no? Non vorrei che ci avesse fregato sto Maurizio Ruggero. Ti ha coglionato, dici? No, amico mio. Walter, dai, Walter. Ah, eccomi qua. Allora, a proposito dei Rom, a un certo punto io ho costruito, cioè avevo 15 anni, costruivo case e ora sono in pensione. Ho una palazzina che è stata progettata e pronta, è alta meno di 200 metri, ci stanno 2000, sono grosso modo 600 appartamenti. Okay? Ma di chi è? Sua? Il prezzo è giusto. Ma è sua, sta? E cominciamo, anziché parlare questo, no, cominciamo a mettere dentro. Walter, non ho capito, ma di chi è sta palazzina? Cominciamo a mettere dentro delle persone. Ma di chi è? Walter, di chi è sta palazzina? No, cioè, sono progettista. Ho capito, ma sarà di qualcuno. In Italia esiste la proprietà privata, io questo voglio far capire, cioè questi palazzi. No, questi... d'accordissimo, si costruisce, è da costruire, è pronta. E allora? Pronta a tutti gli effetti. E allora? E costruiamo 600 alloggi dove ci stanno dentro almeno 2500. Ho capito, persone. Ma voi li metterete in affitto in maniera regolare? Beh, adesso quello è un discorso che io, quando ho costruito degli appartamenti da vendere, automaticamente vendevo e firmavano un regolamento di condominio. Poi lo applico e poi rinnovo. Qua c'è un regolamento. Walter, però scusami, abbi pazienza. Però io voglio... la costruzione in sé è il primo passo. Ma io voglio capire una cosa. Tutto il problema qui. Non mi tocca, ecco. Tutto ma io non capito, per quale motivo mi hai chiamato stasera? Spiegami, Walter, per dirmi che cosa? Che questi appartamenti che tu non controlli dovrebbero andare a... dei Rom e tutto quello che succede, la prima cosa è dargli casa. Ma dargli che? Se la devono cercare la casa, se la devono meritare la casa. Ma se non la costruiamo, che so io... Ma come la costruiamo? Secondo un parere mio, attenzione, sia ben chiaro, cioè non... Nella mia vita, sa, ho 75 anni, di case ne ho costruite parecchie. Cioè, vabbè, Walter, non ho capito niente, vai. Dove andiamo? Michele da Bologna, vai. Oh, Crucia, ascoltami. Dimmi. Io, per quanto riguarda i gay, no? I maschi. Sì. Cioè mi viene la nausea, i maschi, però c'ho un problema, le donne, le lesbiche, a me mi fanno impazzire. Beh, mi hai capito il discorso? Che cosa? Ma sono malato, sono. Ma no, no, ma non ti fanno, non sei malato per niente, cioè, a me mi viene la nausea quando li vedi che si baciano, però devono essere felici loro, non è che io voglio che loro non siano felici, mi capisci quello che ti voglio? Non ho capito. No, ho capito perfettamente, cioè due donne che si baciano ti piacciono, due uomini che si che si leccano, che a me mi fanno sbroccare, ma ti dico che esco pazzo. Faccio una capoccia come un arancio, come un portogallo. Scusi, professore, posso chiederle una cosa? Diventa pazzo, ha detto, diventa pazzo. David, ascolta, tu quando riguarda i Rom, sì, no? Posso chiedere solo una cosa? Sì, grazie. Prego. Queste riflessioni che lei ci ha fatto su quello che la fa eccitare, diciamo, le fa anche impazzire. No, ma leccaggi. La fa anche in altre trasmissioni di telefonare, come dire, esprimere il suo punto di vista? No, io volevo essere chiaro, preciso, per farmi no, capire. No, ma lei è stato molto chiaro e preciso e grazie, ma ad esempio non le viene in mente... No, però ha ragione, cioè nella cultura diffusa italiana, nella cultura popolare italiana, della gente, diciamo gli uomini in particolare, bravo Crociani. Quando tu vedi due donne che si baciano, o fanno addirittura altre cose, sesso, eccetera, insomma poco male. In realtà non c'è questo, no, non c'è questa repulsione, non c'è, anzi ci piacciono, però l'idea, capito, che due maschi, magari pure grossi, pelosi, barbalughi, peli, che si accoppiano, ci fanno schifo, diciamo la verità. Ma a me pure, che per carità sono a favore, sono a favore di tutto, un po' mi fa schifo, devo dire la verità. Però un po' io non è che li condanno. Io no, perché no, però ha ragione, però Michele non ha torto, guarda, anche nella nostra, proprio anche tu, diciamo la verità, che sei anche tu, se dovessi una sera stare davanti alla televisione, Parenzo, e vedere un qualcosa, un film, un qualcosa. Sì, io guardo film, serie, sì, ma serio, se dovessi scegliere, a me no? Mi fa mosciare quando vedi che vabbè, quello adesso, questo è un altro discorso, però capito, Parenzo, qual è il discorso anche di Michele, no? No, il dilemma lo capisco. No, ma la differenza anche, la differenza. Vabbè, grazie Michele perché ci hai illuminato. Roberto da Palermo. Sì, io non voglio fare un discorso contro gli zingari, però voglio dire una cosa, anzi due cose. Una cosa è, io lavoro in ospedale, sono un medico, vengono i zingari e giustamente reclamano tutti i diritti di questo mondo, giustamente, perché quando una persona dice tu mi devi trattare da uomo, però attenzione, io penso, questi che reclamano, a volte anche con prepotenza, devono pensare però che chi è che ha bisogno di qualche cosa in ospedale paga le tasse, perché un malato in ospedale costa moltissimo, un diabetico... Ma allora che c'entra questo? Non ho capito, che c'entra? L'Italia ha milioni di diabetici e costano 300 euro l'uno al mese. E allora? Tu che sei... vabbè, gli zingari pretendono, però non hanno la coscienza di capire che tutti questi diritti loro li possono avere perché sono uomini, siamo d'accordo, ma anche pagano i contributi, pagano le tasse, fanno parte di un sistema sociale dove c'è qualcuno che lavora per pagare le tasse. Lei è un medico? Lei è un medico? E che succede quando i Rom vengono in ospedale? Tutto quello che vogliono, hanno di più di quello che hanno le altre persone. Ma verranno in quanto italiani, in quanto, come dire, iscritti alla lista? In quanto uomini, noi, vabbè, allora... noi facciamo la dialisi che costa milioni e milioni. Ma allora di euro, qual è il punto? Non ho capito qual facciamo è il punto. Facciamo la dialisi extracomunitaria arrivati coi barconi. Dunque? E niente, loro in un certo senso quasi ci intimidiscono perché reclamano. Questo è un discorso. Poi volevo fare un altro discorso. Qual è? Guardate che ci sono delle zingarelle, ragazzini, anche i 12 anni, che tentano di ribellarsi al sistema zingaro. Il sistema zingaro è tu vivi e lascia vivere, insomma, basta avere, non bisogna dare tanto, non bisogna partecipare alla società, lavorare, tanto tu sopravvivi lo stesso. È inutile che ti fai la casa, ma i giovani questo sistema lo rifiutano, e quando lo rifiutano li massacrano di botte. Vabbè, Roberto, ho capito. Ciao, 30 secondi, torniamo. Si è lodato Gesù Cristo. Sempre. La Zanzara. Ragazzi, noi non ci dimentichiamo, sì, questa sera parliamo un po' di gay. Dunque, scusami, mi scrive Maurizio Ruggero. Sì, sì. E mi dice: sto ricevendo una marea di telefonate a favore, lo sapevo. Così mi ha detto, anche a me, sì. Ha scritto anche a me. Sto ricevendo un sacco di telefonate a favore. Vabbè, ragazzi, il mondo è bello anche perché ci sono queste perversioni, queste follie, altrimenti i freaks non esisterebbero, i cosiddetti folli, i cosiddetti matti. Vabbè. Noi non ci siamo dimenticati della vicenda dei vitalizi, non ce ne siamo dimenticati per nulla. Ieri sera il professore avvocato Carlo Tormina, l'altra sera, ha sostenuto qui da noi che lui il suo vitalizio, per essere stato 5 anni in Parlamento, uno scandalo anche quello, anche se lui non vuole ammetterlo, 2000 euro, cioè vi rendete conto della follia? Cioè la follia è questa, uno dovrebbe ammetterlo, dice guardate, non posso rinunciare, sono un privilegiato, avete ragione su tutto, mi arrendo e alzo le mani, no? Professore Tormina, tra gli altri, per carità, insieme a tutti gli altri, uguale a tutti gli altri, dice no, io lo prendo a norma di legge, e ci mancherebbe pure il contrario, cioè ci mancherebbe pure che uno lo prende contro la legge, no, lo prende a norma di legge, certo, la legge che si sono costruiti loro, che si sono fatti loro, no, proprio a pennello se la sono messa addosso, questo è chiaro. C'è ha detto io il mio vitalizio lo do ai cani. Lo do ai cani! Ai cani, ma ce l'abbiamo sto file di Dormina? Non ce l'abbiamo, e dopo lo mandiamo, dopo lo mandiamo. Noi non ci dimentichiamo neppure dei nostri ospiti preferiti, per esempio Capanna, l'ultima volta, il professore, no, non è vero, il professore, insomma, Mario Capanna, ex leader del 68, signore che dice di battersi per i poveri nella sua vita, eccetera, eccetera, però non vuole rinunciare al 10% del suo vitalizio. Per principio, doppio vitalizio, per principio dice, per principio il 10% del doppio vitalizio, doppio, doppio, doppio. L'ultima volta che è stato da noi ha detto queste parole. Si è beccato una multa di 25.000 euro da parte della RAI e ovviamente Beglista. Fosse dipeso da me, glielo avrei dato come minimo il doppio. Perché un gesto di tipo nazistoide, come lui ha realizzato, e non si è mai visto nella storia della televisione italiana. Quel suo atteggiamento finirà sui libri di storia del giornalismo, nel senso che verrà occultato come esempio negativo, cioè come un conduttore televisivo non deve comportarsi. Massimo! Buonasera, ciao a tutti. Come stai? Benissimo. Senti, no, un momento. Voglio dire una cosa in un minuto e 40 secondi al signor Gilletti, come concordato. Come concordato. La RAI, che sarebbe il servizio pubblico italiano pagato da tutti noi italiani che abbiamo fatto la rivoluzione, nel 68 saremmo andati lì, avremmo preso quel maledetto cavallo che sorride fuori dai Viale Mazzini e l'avremmo spezzato in quattro. Non è bello però, signore Capanna. E avremmo mandato a dirigere la RAI un gruppo di operai e di lavoratori amici. Ma questo non è possibile. Che avrebbero raccontato il dovere del proletariato, il diritto del proletariato. Sì, perché lo chiama, scusi Capanna, perché lo chiama Gilletti? Signor, perché lo nobilito con le due L, Gilletti. Ah, dice l'onorevole. Ma 25.000 euro davvero per lei sono troppo pochi? Sono pochissimi, perché se pensiamo al danno inestimabile che ha fatto al mio libro, ma in particolare alla cultura italiana, con quel gesto sprezzante, buttandolo per terra in uno studio televisivo volgarissimo, peraltro in una trasmissione che si chiama, mi pare, Arena, neanche Agora. L'Arena, io conosco quella di Verona, lì c'è l'Agora, che in greco significa piazza, ma voi siccome siete degli oclocrati cretini venduti al capitale, non lo sapete. Ma Giletti non ride molto di fronte a Capanna, però, perché è una cosa su cui diventa improvvisamente serio, vero Massimo? No, ma io, vedi, io a differenza di Capanna, quando sbaglio, dico sbaglio, ma non hai sbagliato, devo essere sanzionato, nel senso che non ho mai detto, non ho sbagliato a buttare quel libro. La verità è che secondo me quel libro è già stracciato nel suo contenuto dalle parole di Capanna, e, per cui quello che mi dispiace è che, come dicevi tu, quando uno si fa le leggi e se le scrive in funzione propria, automaticamente non sono più delle leggi inattaccabili, ineccepibili, sono delle leggi che hanno una unica finalità, quella di realizzare la parola diritto e trasferirla nella parola privilegio. Sì, ma tra l'altro, e basta, sì, ma perché un normale cittadino italiano, e qui chiudiamo questa vicenda, Mena, un normale cittadino italiano per portare a casa 3.000 euro netti al mese dovrebbe avere almeno un fare di versamenti che si aggira intorno a 700.000 euro. Sì, sì, certo. No, certo. Momento, questi signori, come Capanna, hanno versato ma un nulla. Sì, sì, nulla. Rispetto a quello che prendono, ma non c'è dubbio. E questo è un altro punto. Poi, se qualcuno di voi sostiene, chiunque sia in ascolto ancora oggi, che una persona che si è seduta e ha fatto una sola seduta in regione, o in Parlamento, sì, sì. O in Parlamento, ma io parlo delle regioni, perché Capanna è la regione, sì, e Lombardia è anche regione, ha visto un signore che si è seduto, ha fatto solo una seduta, per questo ha un diritto di a vedere 3.000 euro netti al mese, quando fuori i pensionati sono costretti a subire continui tagli. Ecco, allora, qualcuno dice Giletti, basta. Giletti, siccome prende, l'ho detto anche Capanna, peraltro, e hai altre persone che sono intervenute da noi, siccome prende 400.000 euro da noi, non si può permettere di fare la morale. Ora, mi dicono una cosa del genere, io mi incalzo, ma non per difenderti, lo sai che non mi difendo. Io ho un contratto da 333.000 euro, come ho detto, dichiarato più volte, nel senso, intanto sono l'unico che dichiara apertamente, lo fece a Brunetta, lo fece a stesso Capanna, di dichiarare. Ma possibile che non ti sei opposto a questo fatto della sanzione di 25.000 euro per aver buttato il libro? No, perché io sono convinto che un conduttore, cioè, anche tu, se tu pensi di aver fatto una cazzata, ha sbagliato a buttare quel libro, perché non, in questo libro, diciamo, Capanna, di cui nessuno sentiva più parlare, forse era meglio così, Grazie a quel mio gesto, sì, sbagliato, lo ripeto, sbagliato, fatto però con la convinzione che, siccome se uno è attento televisivamente, le telecamere erano dall'alto, io ho convinto che fosse chiusa la trasmissione e fossimo fuori, uscendo ho buttato il libro perché ero troppo incazzato. 25.000 euro? Ma non importa, io sto dicendo che io sbaglio, il problema è un altro. Non si può giocare e prendere per i fondelli gli italiani continuando a dire no, che ci sono questioni di principi, di quando gli esodati sono stati sbattuti. Ma come, esatto, un problema. Quando, come sei rimasto con lui? Come sei rimasto adesso? Ma io, guarda, con una persona che salta su, insomma, ti ripeto, Capanna, di cui nessuno si ricordava chi fosse, grazie a quel gesto mio sbagliato, ha ripreso vita, è andato in tutti i programmi, ha fatto le sue uscite. Io sono per la libertà parola. Hai ridato vita a Capanna, insomma. Ma abbia ridato vita a Capanna, ma non è un problema. Io quello che mi spiace è che Capanna saliva sulle barricate per difendere, sostenendo nel 68 i diritti degli ultimi. Oggi sale sulle barricate, fa le barricate per difendere non un diritto, un privilegio. No, ma questo è chiarissimo. Senti, però io non mi arrendo di fronte al fatto che uno possa pagare per aver buttato un libro per terra. Sì, no, ma questo è in un assurdo, gesto, dai, come dire, di chiaramente di, non perché la cultura fa schifo, perché i libri così, ma semplicemente perché c'era stato un diverbio tra di voi. Uno ha buttato il libro per terra, come poteva buttare un pezzo di carta. Ma io ripeto, ho sbagliato, io invece sostengo di aver sbagliato, e quindi quando uno sbaglia deve essere sanzionato. Dunque non gli punto. Chiedi scusa però a lui. Ma io a lui gli ho chiesto scusa per il gesto già durante la pubblicità. E che forse non tutti sanno che io gli ho chiesto scusa, guarda, mi spiace, ho sbagliato, non è stato un attimo il gesto. Lui, ma lui dice che è un gesto nazista. Durante la pubblicità ha preteso che il gesto venisse, il libro venisse riposizionato, messo lì, e ha preteso che io rifacesse tutta la scenetta. Dice che bisogna riposizionare il libro. Per bravo, quindi allora, dai, insomma. Gesto nazistoide, ha parlato di gesto nazistoide, ha detto che sono pure pochi 25.000 euro, che deve andare nei manuali di giornalismo come. Beh, è una cosa pazzesca. Vabbè, guarda, dai, andiamo. Io sono per la libertà di espressione, per la libertà però di essere preso per i fondelli, che è un'altra cosa. Allora, dopo la pubblicità, parliamo un po' di Juventus e di altre cose. 800 24 00 24. Ma Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vasca. La Zanzara. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347 360 3084. A proposito di calcio, adesso parliamo un po' di calcio con Massimo Giletti. Voglio capire come sta aspettando questa finale e soprattutto cosa fa. Ma guarda, io non cado più nelle trappole con lei, quindi. Perché? Lei può dire tutto quello che vuole. Cioè, in che senso? Che trappole? No. Con chi parlavi? Con il cane. Con chi parlavi, Massimo? Con meccanico? Con chi parlavi? Non cado più nelle trappole, può dire tutto quello che vuole. Ma con chi era? Stavo su un'altra libera, sto su un'altra linea. C'era la pubblicità, no? Ah, sì, c'era la pubblicità. Ma chi era? Stupendo queste cose. No. Non un motorino. Non cado più nelle trappole. Sì. Sostituzione di una candela di un motorino. No, un momento sulle candele, un momento. Pure Capanna ci si mette con le candele. Negli anni 60 le candele venivano usate per bruciare i banchi di scuola al grido di vogliamo tutto. Non era bello, Capanna. Era molto bello, era una rivoluzione liberale in cui il proletariato, perché c'era la libertà, il proletariato riacquistava diritti. Quindi, ma che avreste fatto di Giletti, scusi Capanna, all'epoca? Non sarebbe esistito, saremmo entrati all'università, avremmo occupato con i Katanga l'università, avremmo devastato tutto, occupato le aule. E avremmo dato il 6 politico a chiunque, ovviamente in questa epoca, dando la laurea a chiunque, dando la possibilità a chiunque di lavorare, e non persone come Giletti, che sono entrate nel servizio pubblico grazie ad aiuti politici. Io farò i nomi nelle prossime trasmissioni, però i nomi. Vabbè, io voglio chiedere a Massimo invece che cosa fa. Non è che pensa che sia veramente Capanna, sono Parenzo, Giletti. È Parenzo che fa Capanna, non so se l'avevi capito. Si capisce, dai. Ha fatto bene, perché ha una buona. Non è male. Buona cantilena. A me piace quando lui dice un momento. Sì, spieghiamo. Lì sei molto preciso. E poi ti attacca un pippone di 40 minuti. Dice un momento. Vorrebbe attaccare. È un affabulatore, quindi molto bravo. Senti Massimo, io voglio capire una cosa, ma tu, se la Juventus vince la Coppa dei Campioni, se dovesse mai succedere una cosa, cioè, scusami, se toccando dappertutto adesso tocca. Fai come la Ferilli per la Roma. Che fai? Che fai? Fai qualcosa, dimmi che cosa fai. Dimmi che cosa fai, dai, fai qualcosa, ti devi inventare. No, sarò lì a Berlino, quindi non lo so. Fai un fioretto, che ne so. Vai a cena con Capanna. Vado a cena con Capanna. Vai a cena, vai a cena con Capanna, cosa pazzesca. Sono disponibile a passare una serata a cena con Capanna. Capanna è un uomo di cultura, è molto interessante. No, infatti non è un grande sacrificio, deve essere una cosa tremenda. Che ne so, ti rimetti con la Moretti, bellissima come cosa. Sulla vita privata non parlo. se vince la Juve, io sono convinto. Ma mica è una roba brutta, scusa. Ma infatti non è una roba brutta, però se uno non ci vuole sta, non ci vuole sta. Scusami. Ma scusate, ma tanto è un'ipotesi, voglio dire, che la Juve vinca in Germania è difficile. Cioè, qual è più probabile delle due? Insomma? Ma è molto difficile, diciamo, molto difficile che uno vada a vincere in Germania. Cioè, c'è più possibilità che tu. È molto difficile che uno vada in Germania. Lo sai è che è facile che un cammello. Allora, faccio una battuta, ma ecco, non mi verrà bene, però secondo me. Parenzo, secondo me mi dai ragione su questo. Cioè, se Massimo Giletti si presentava in Veneto, prendeva più voti dell'amore. E questa è una mia intuizione, per carità, non è che prendeva più voti di Lady Like. Questo è il mio sospetto. Su questo credo che gli ascoltatori mi possono confortare. No, ma intanto non risponde su questo. Senti, ma la partita dell'odio, che è successo alla partita dell'odio? Succede che chi va a fare queste partite ogni tanto pensa innanzitutto di essere un giocatore vero, quindi fa un autotraining psicologico, in cui anche perché vede il campo che è vero, cioè tu dici Barbarossa, Moreno, la gente che sta tutta lì, è Ramazzotti, vera. Chi era il più nervoso? Insomma, ce n'è un bel elenco, però in realtà poi ci sono persone serissime come Enrico Ruggeri che riescono a mantenere le situazioni sotto controllo, si pigliano i falli senza rompere le scatole, c'è chi invece esagera e non ha capito che quella è una partita dove dobbiamo. Vabbè, il più nervoso chi era? Sì, esatto, bisogna restare. Barbarossa sicuramente è uno dei peggiori in campo, come da un punto di vista di tensione. Però cioè, se deve andare a calmare, è meglio che si dia una calmata. Insomma, su ma questi. Ma si sta, nel senso che comunque, insomma, voglio dire, se uno ha queste tensioni, vuol dire che uno anche sportivamente è cattivo, sano, da un certo punto di vista va bene. È una partita del cuore. Limitare, però, a non esagerare, perché c'è un pubblico che viene per divertirsi, quindi bisogna cercare di placare gli errori degli altri, non a esasperare. Vabbè, questo d'accordo sempre, però uno gli ha detto ma Nedved pure con tuo idolo, pure lui ha fatto Nedved, ha esagerato, ha sbagliato. No, vabbè, d'accordo, ma la questione era chiusa già lì, nonostante tutto era già chiusa lì. Quando invece, anziché dividere, ripeto, vai lì per alimentare il casino e poi scoppia l'irreparabile, no? La questione tra Nedved e Moreno si era chiusa, il fallo era fatto, non si doveva fare, però siccome non si deve fare tutto il resto che ha fatto anche Moreno, capisco che un ragazzo giovane davanti alla folla fa un tunnel a un fenomeno e si esalta, però voglio dire, bisogna anche avere rispetto degli altri. Ma se uno fa il tunnel, è ho bello capito, ma se lo fai a me va bene, se lo fai a un campione che gioca lì per divertirsi, perché quindi non gioca, cioè, al massimo, gli può partire la brocca al campione. Io ho visto una volta Costa Curta subire un tunnel della ragazzina giovanile fiorentina, e quel ragazzino non so dove è finito dopo, quindi voglio dire, i campioni non accettano questa cosa ma non è bello però ho capito, ma sono loro che si devono dare una calmata, non sono gli altri che non devono fare i tunnel, tutti altrimenti devono darsi una calmata, tutti compresi noi. Io voglio capire una cosa, che volano e altre cose. Ma sei contento del successo di Zaia in Veneto? Scusami, io sai che voglio dire, Zaia è veramente uno molto forte. È molto forte, era difficile, difficile battere. Ha vinto perché lui è uno molto forte, radicato sul territorio. Tra l'altro l'unica regione dove i 5 Stelle non hanno fatto un passo avanti. No? Io che sono veneto avrei votato Moretti, ovviamente. Ma come se devo di votare tutti quelli che vuoi. Io non sono veneto, quindi non posso votare. Comunque era difficile battere Zaia. No, io diciamo che la sono verità. Veneto, vivo a Roma, quindi non posso. Era difficile battere Zaia, diciamolo, no? Era difficile, da uomo di comunicazione te lo chiedo, no? Era difficile, da uomo di comunicazione te lo chiedo. Ma ovviamente era molto complicato. Era molto complicato. Era molto complicato, si sapeva benissimo che era una missione molto difficile. Un momento, se il Partito Democratico avesse candidato un uomo come me, probabilmente Gilletti la penserebbe diversa. No, come te, tu non prendevi meno voti della Moretti, Capanna. Io avrei preso molti più voti della Moretti perché voglio trasformare il Veneto terra OGM free, spiego. Ma non, io non frego un cazzo a nessuno. E poi a me, sai quello che in queste vicende, di là di tutte le questioni che poi voi colorite in vario modo, ma che coloriamo? Non amo mai chi dileggia chi perde. No, quello è vero, quello è vero. Mi dà molto fastidio questa cosa che poi tipicamente italiana, cosa, quando vai a vinci sei una regina, una star, eccetera. Esatto. Quando perdi si carica e si colpisce. Ora, uno accetta una battaglia molto difficile, come quella che è stata della Moretti, che era una battaglia tra tutte le regioni la più complicata e complessa. Sì. E quindi perdi e ci sta. Perdi male però, perdi male anche. Sì, perdi male, ma insomma mi sembra che il PD abbia avuto difficoltà in altre con le liste, quindi è molto, comunque si sapeva che quella era una terra molto da 20 anni. Però tu dici poi c'è stata il dileggio dopo, c'è la presa per il culo. No, trovo quello lo trovo fuori luogo comunque, a prescindere. Sì, sai, quando uno però si espone anche nella campagna elettorale, uno dice no, vinceremo. Comunque io non parli della Moretti, abbiamo capito. Moretti, ma lo so benissimo che non ti va. Una campagna sul territorio omicidiale, per cui voglio dire, è stata lì, ha dato quello che massimo che poteva fare. Ha dato il massimo che poteva fare, sì, ma io infatti io sono uno stronzo perché ti voglio sempre trascinare su questi terreni. Ma no, così. Ma tu fai il tuo lavoro, ma non me ne frega. Anch'io fai come sono. No, ma certo, ma per carità, ma poi non è che ti voglio dire a me che me ne frega se tu stai con la Moretti o no, Massimo. Io in fin dei conti ti assicuro che personalmente non me ne frega assolutamente nulla, caro Massimo, ti ringrazio, a presto, ti un abbraccio. Ciao, mi raccomando, ciao. Io voglio capire se vai in prima serata l'anno prossimo o no, prima serata nel senso ci sono cambiamenti o no. Sono anni che dobbiamo andare in prima serata, e appunto, e come mai? Come aspettiamo? 76 anni faremo a qualcosa. 76 anni forse la Rai manderà in prima serata con il privilegio del vitalizio. Ciao. Vabbè ragazzi, andiamo a cosa? Dai, andiamo a Roma, Livio, vai. Buonasera, Luciani. Vai, dimmi. Senti, io ti ho telefonato perché sono veramente, guarda, io ho 74 anni. Sono veramente angustiato praticamente dal comportamento degli italiani che vanno a votare praticamente quando a un certo punto ci stanno prendendo per il culo. Oggi 44 arresti per mafia capitale è una cosa indecente. Hanno depenalizzato il furto, cioè uno che ruba a casa tua, a casa mia, non viene più punito. Amico mio, hanno depenalizzato il furto. Una povera ragazza che viene a lavorare qui a fare la golf viene uccisa e praticamente nessuno sta pagando. E allora? Era tutto risolto con il silenzio di stampa che adesso ha fatto gioco a molti. Allora io dico questo: ma perché non andiamo, siamo 4 milioni di italiani a Roma, perché il sindacato sta fermo? Perché non andiamo, il sindacato sta fermo su cosa? A Palazzo Madama e al Campidoglio a fare a fermare che? Questi bastardi. Ma chi bastardi? Andiamo la ghigliottina, come veniva il 6 giugno, la chiesa a Piazza del Popolo, che c'era il boia che si chiamava. Adesso siamo passati al boia, aspetta un attimo, voglio che si chiamava, come si chiamava il boia a Piazza del Popolo, scusa? Il boia? Sì, come si chiamava? Mastrovitta. Vabbè, ho capito, ma amico mio, adesso va tutto. Mastro Titta, va tutto bene, amico, va tutto bene. Però addirittura il boia a Piazza del Popolo per i politici, tutti i politici, tutti, dal primo all'ultimo. Tutti i politici, i balordi, non quelli restanti, quelli giusti, ci servono. Ma balordi che vuol dire? Io per esempio, sono per la democrazia. Beh, non mi io pare. Io sono un cittadino italiano che ha pagato il prezzo. Va bene, Livio, voglio capire chi è che manderesti sotto la ghigliottina? Chi manderesti? Ma spiegami. Sotto la ghigliottina. Ma no, facciamo un elenco. Il primo. Dico, il primo. Ghigliottina per estremizzare. Insomma, estremizzare, certo punto. Sì, ma chi manderesti? Fammi un esempio. Il primo che manderesti. Io mando, no, ma a un certo punto se non altro, se non ghigliottina, io manderei praticamente in carcere la gente, e butto la chiave. In carcere, ma la gente chi? La gente chi? Scusa Giuseppe. Per esempio, facciamo un esempio concreto, Livio. Allora, il rom che ha investito quella ragazza, tu che cosa faresti? Ma io non è che io dico gli dai un po' quei campi eccetera, perché quella gente e allora gente, che faresti? Normale come sono umano io. Che faresti? Va rieducata, va riportata alle condizioni di rispettare le leggi dello Stato e dove stanno. Vabbè. Questo è il mio discorso democratico. Democratico, cioè, aspetta, fermo, pubblicità. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocracy. La Zanzara. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. Marco da Pescara, vai Marco. Sì, allora io chiamavo per ritornare sul tema della sessualità, no? Che come dice Ruggero viene vissuta come una malattia. Allora racconto un'esperienza personale. Allora io quasi tutti sabato partecipo a delle feste private in cui si pratica lo scambio di coppia. Sì, quasi tutti, cosa, quasi tutti. Quasi tutti, quasi ogni sabato sì. Prendo parte a delle feste private, feste sì. Quindi che si tengono in case private dove sì. Si pratica liberamente lo scambio di coppia. Certo. Certo, ed è una normale. Cosa fantastica. Beh, una cosa, meraviglioso. È una cosa meravigliosa, ma una cosa bellissima è vedere che queste donne che partecipano, ma famiglie legatissime tra loro, coppie unitissime, che quindi sì. Rispettano tutti i principi dell'amore, certo. Come deve essere inteso, sì. Giocano liberamente tra loro, donne bisex, che quindi vederle giocare tra loro con una sensualità, con una dolcezza. E secondo me la cosa importante è che sono proprio questi giochi che invece ci insegnano a rispettare il piacere del corpo. Aspetta, che ti sento male, Marco, cerca di avvicinarti meglio. Sì, voglio dire, sono proprio questi giochi che paradossalmente, sì. Al di là di quello che si pensa, ci sì. Insegnano a rispettare i nostri corpi, a conoscere i nostri corpi, a giocare con i nostri corpi, a vivere la sessualità in maniera libera. Capito, Parenzo? Sì, no, capisco che questo simpatico signore pervertito fa delle ma perché cose... pervertito? Ma, assolutamente, ma perversione assolutamente no, vi dico un'altra cosa. No, voi questo pensate... gioco, no, perversione forse è sbagliato, sì, ma fa quello che vi pare. No, ti voglio spiegare una cosa. Mi meraviglia che telefoni, così per dirlo, no, pubblicamente, allora, ma no, non per dirlo, per vantarmi, perché no, a differenza di quello che pensa la maggior parte delle persone, è una pratica molto molto diffusa. Assolutamente, assolutamente, ma ci sono varie... riconcilia con la sessualità libera e oltretutto è praticata da persone di altissimo livello sociale. Io incontro giornalisti, vabbè, no, persone più varie, le più svariate. Più varie, però vi assicuro, sì, ragazzi, lo scambismo è il fulcro della vita del futuro, cioè è il centro su cui si baseranno le relazioni umane nei prossimi anni. No, ma perché speriamo anche no? Che te ne frega? No, ma dico, per quanto mi riguarda, poi dopo ma che ne sai di dove ti porterà il mondo, la vita? Puoi far diventare una norma una cosa, ma chi vuole farla diventare una norma? Sto dicendo che come suggerisce l'amico Marco da Pescara, essendo una pratica sempre più diffusa, evidentemente, esatto. Evidentemente è un tipo di relazione sessuale, un tipo di relazione tra uomini e donne, non solo tra uomini e donne, che diventerà un modo anche per preservare il matrimonio, sì, o preservare bravissimo. Una coppia, la vita di coppia, per salvare in alcuni casi, se si può dire così. Ma c'è un'altra cosa da dire. E dai. La condivisione. Si parla di condivisione. Condividere il piacere sessuale senza i tabù preserva la vita di coppia. Scusa, però, va bene tutto, ma lei però scusi, perché dimentichiamo che questo è il Sole 24 ore? Ma cosa cazzo c'entra adesso? Scusa, ma lui sta chiamando la Zanzara, sì. L'amico Marco. L'amico Marco sta chiamando la Zanzara perché sa che qui si può parlare liberamente anche di queste cose. Qui scusami, amico mio. Marco, comunque sì. La cosa che mi ecco, ogni sabato tu organizzi le feste, diciamo, quelli allora, che vengono chiamati no, i mucchi. Io organizzo o vengo chiamato, perché poi si crea un giro di persone, di contatti, grazie sì. Anche a attraverso i social network e altri strumenti che oggi ci aiutano a fare queste cose. Quindi si organizzano delle feste a cui possono partecipare 8, 10, 12 persone, sì. Ci sono anche delle stanze, si può giocare tutti insieme, si possono giocare in stanze separate, ma la bellezza è proprio sta nel rispetto, è lì che si impara a rispettare, perché si fanno solo le cose che si vogliono fare, nella maniera più libera possibile. Vabbè, e non ci sono pregiudizi. Ciao. Allora, Allora, devi sapere, caro Parenzo, che c'è una signora che ci chiama sempre da Vicenza, almeno ci chiamava, e che si chiama Lores. Te la ricordi, Lores? Come la mitica, no, Lores. Matta. Ma no, una matta, adesso non esagero, una matta. Cioè, l'ultima volta mi risulta. Quella che diceva d'accordo? No, quella che diceva. No, no, no, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, febbraio scorso, senti, febbraio scorso, Lores. E se uno zingaro viene dentro a casa mia, sì, quello fai? Non lo vede più nessuno. Che gli fai, esce, scusa? Esce dentro i sacchi neri. Beh, Lores, non esce più. Ho capito, no, Lores, no, però scusa, se un rom c'ha in mano coltelli, pistole, non penso che la cosa sia, cioè potrebbe, potresti anche uscire tu con la bara, in bar. Ma non, lui non sa cosa ho io a casa. Che però, c'hai in casa? Cosa a casa? È quello che serve. Che c'hai? No, no, no, no, adesso approfondiamo questa storia. Che c'hai a casa? Coltelli, ho. Ah, ma con i coltelli che ci fai? Coltelli per la cucina. Quelli che ci fai? Con le bande rom organizzate, quelli c'avano le pistole e tutto, ti fanno un mazzo così, ti fanno. Ma sta tranquillo. Cosa? Ti fanno un mazzo così? No, no, no, gliel'ho fatto io il mazzo a quelli. Ma con chi vivi? Lores, con chi vivi? Guarda che quelli, ma con chi vive, quelli da stuprano, sola, stuprano, fanno, fanno di tutto, stuprano. No, ma io guarda, sono vecchio, no, non, non fanno neanche quello, sta tranquillo, no, 65 però. Anni. Sta con una vicentina però, signor Giletti, sembra, poi non lo so. Ma con la Moretti, ma quella deficiente, come adesso, là, che non la vogliamo neanche vedere, ma proprio vogliamo, veramente. Parli, parli per lei a titolo, no, personale, no, come sempre, cara Lores. Sta zitto, Mona, che cazzo vuto, tipa, domanda merda, subito. Che non ti sia altro. Eccola, allora, qua, la graziosa Lores, come si carica subito. È cresciuta nelle migliori scuole di Buckingham Palace, la signora Lores. Smettila, Mona, smettila, coglione. A un certo punto Lores dice a Parenzo: la merda ti è andata. Sta zitto, dai, che ti la merda te ne su Sanremo, meglio che te la traducete in italiano. No, però, dice la signora Lores, allora, dice alla merda è andata del cervello, dice a la te, signora, sì, Lores. A te. Sì. Allora, devi sapere, Parenzo, che la signora, sì, Lores si chiama in realtà Lores Dalzotto, Lores Dalzotto Vicenza. Questo non lo dico per scoprire. E l'hanno ricoverata da qualche parte per. No, si è candidata. No, no, si è candidata alle elezioni regionali. Cosa? Due cose spesso non sono incompatibili. Diciamo. Beh, no, certo. Certo. Però in questo caso, ecco si è candidata qui, alla regione Veneto. Si è candidata alla regione come governatore. Veneto. No. Nelle liste, nelle liste indipendentiste, nelle liste, no, sì, del partito indipendentista, sì, del partito indipendentista. Voti presi? Ma io penso se è tanto 100, se è tanto. No, no, 70, 70 oh, voti. 70, 70 mentecatti. 70 voti, 70 voti. Io proverei. Anche la sua famiglia l'ha votata praticamente. Beh, 70, sì, la sua famiglia, sì. Beh, 70. Famiglia tua, tu avrai almeno 70 parenti? No, non credo. Non credo. Hai 70 parenti? Ma no, un po' di meno, dai. Tra fratelli, nonni, amici. Vabbè, ho capito, ma magari non tutti, non lo so, cioè, non, no, 70 persone, no, le metto insieme. 70 persone hanno però scritto Lore, come si chiama la nonnina? Dalzotto, Lores, lo dico perché si è candidata, se no non direi il cognome. Abbiamo scoperto che le due cose coincidono, cioè Lores Dalzotto, Vicenza, candidata a partito indipendentista, la mitica Lores. Diamo la bocca, la sbeffeggiamo. Aspetta. Manco la sua via l'ha votata. Aspetta. Neanche la via. Mi sa che ci stava ascoltando, però. Ci ha fottuto così. Non bisognava dire nulla. Risponde la segreteria telefonica di 3. Paolo da Prato, vai Paolo. Sì, ciao. Vai, dimmi. Io volevo replicare a Parenzo sul fatto di chiedere scusa ai rom. Sì. Ora, io faccio due lavori e non riesco a malapena, ma a volte non riesco. Non lei come persona deve chiedere scusa. Ho capito, ma è una cosa veramente, cioè non sta, come si dice da noi, né in cielo né in terra. Perché queste persone non è che gli è stato sottratto dei soldi che erano loro. Gli unici fregati sono come sempre i contribuenti italiani, non certo i rom. Dunque non dobbiamo chiedere scusa a nessun rom, no, per no, mafia, no, capitale, a nessun rom, a nessun rom. A nessuno, a chiaro, nessuno. No? Chiaro. Ai migranti e ai rom. Ma quale chiedere scusa? Dovete ma chiedere scusa. Ma devi chiedere scusa almeno, tu. Stato. Ma non chiedo scusa perché non ho rubato niente, quindi non chiedo scusa a nessuno. Ma come figura di palta che l'Italia ha fatto, quei politici hanno fatto di destra e di sinistra. Ma cosa c'entra? Ma c'è gente che se ci sia gente rubando soldi che erano destinati a loro. Non erano destinati, sono soldi del contribuente, sono soldi del contribuente. Sono soldi che vanno in, perché se avessero messo in sicurezza quella situazione. Io ti spiego, perché dare i soldi ai rom e ai migranti mette in realtà in sicurezza l'Italia, che è esattamente il contrario. Ma non dite cazzate, ma che dici una strondici delle strondici. Pensate, quei soldi lì sono tanti, sono soldi investiti, no, in sicurezza. Allora, innanzitutto sono tanti soldi perché ci sono le mazzette, primo. Secondo, non bisogna dare nessun soldo ai rom, ma se sono italiani, se sono italiani è sbagliato dire soldi ai rom perché non sono ai rom, ma sì, soldi per all'integrazione, gestire quel, ma non problema. Mi interessa, sono come gli italiani, soldi nessuno, per gestire, ma perché nessuno, nessuno mette soldi per bisogna gestire, bisogna chiedere scusa ai migranti perché gli hanno rubato dei ma soldi, ma non hanno rubato nessun capito? Soldo, ma quando mai, hai capito? Ma sei completamente pazzo. Paolo, che dicevi? Paolo, destinarli alla polizia, ai carabinieri, non ai rom. I rom sono ospiti. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, vai, Paolo. Sì, dicevo, sono ospiti e come ospiti si devono adeguare. Quando poi pagheranno le tasse avranno... Allora? Dicevo, poi quando pagheranno le tasse avranno tutti i diritti, avranno anche dei soldi dedicati alle loro esigenze. Fino a quel momento non credo proprio che si debba chiedere scusa a nessuno. No, ma certo, ma assolutamente. Debba, che... Maurizio Milano, cioè, vai, Maurizio. Un esempio. Ehi Paolo, grazie. Maurizio Milano, vai. Ciao. Dimmi. Luciani, finalmente riesco a dire qualcosa a Parenzo, che è una vita che glielo volevo dire. Prima di tutto, con ma il tuo modo... Ho già capito. No, non hai capito un cazzo, Parenzo. No, io ho già capito, mi dà già solo fastidio il modo come hai incontrato. Io con lei non parlo. No, ti dico, ma non devi parlare. Dato no, che beh, sei quello che devo fare allora lo decido io, non lo decide lei. Vabbè, però allora, mi dà già nervoso, mi rende già nervoso l'impostazione. Tanto, l'importante è che non senti tu, perché evidentemente... A te piace sentire solo quello tanto che dici tanto mi tu. Dia del lei perché non ci conosciamo, non siamo mai andati a bere neanche un caffè insieme, mai benissimo, benissimo. Vabbè ragazzi, forza, dai, Maurizio, lei. Vai. Le do subito del lei, dato che tu dai del tuo a tutti. No, do del tuo a chi mi dà del tuo. Dai Maurizio, vai al sodo, forza. Ma è lui che rompe le palle sempre con queste polemiche. Calmiamo. La Parenzo, volevo semplicemente dire che il suo atteggiamento, le cose che dice in riferimento ai rom, al razzismo, a questo, non fa nient'altro non che per orare la causa che pensa di difendere, ma, io non, ma non fa nient'altro che fomentare il razzismo, perché dichiara delle cose che verso il radioascoltatore non fanno nient'altro che farlo incazzare, farlo diventare ancora più razzista. No, ma mi scusi, se lo capisce, mi risponda lo capisce. Lei se non lo capisce, non lo capisce, mi risponda lei Parenzo. Con civiltà e educazione, finisco, mi risponda finisco. Lei questi politici voglio sapere se in Israele dato che sei ebreo e io sono, ma cosa sono italiano, ma cosa c'entra? Sei in Israele, c'è qua, a Israele protegge i palestinesi. Vabbè, non c'entra niente i palestinesi, dai. Che cazzo fa? C'entra niente, ma puoi spiegaglielo tu che altrimenti lo mando a fare allora, a quel paese. Fermi tutti, pubblicità. Ehi, voi due malvissuti, state al vostro posto. State ascoltando un programma offerto da con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara. Allora, intanto Matteo Salvini vende la t-shirt con la ruspa. Quasi 2000 richieste da tutta Italia già, Parenzo. Hai capito come siamo ridotti? Beh, ma è una grandissima iniziativa. Cioè, questo signore deve fare politica, non deve vendere ruspe delle in azioni. Vabbè, ma aveva autofinanziamento, scusa, abbiamo voluto bene, l'abolizione bene. Del finanziamento pubblico. E allora non rompere i coglioni, no. Sulla pelle degli altri, degli ma quale pelle? Dai, su, ruspe, la ruspa, però, i respingimenti sono due grandi azioni. Non si può neanche dare un giudizio di valore, di etica su questo. Sono due grandi, sia le ruspe piace, che sia le ruspe che i respingimenti sono due grandissime. Grandissime operazioni umanitarie sarebbero a favore dei rom e degli immigrati. Guarda, te lo dico in maniera molto chiara: le ruspe nei campi rom e i respingimenti alle frontiere sono due cose sacrosante che servono soprattutto sia ai rom che agli immigrati. Non ho più forza. No, ma non è più forza, te lo dico io. Radio Padania, rubrica Servi di Roma fuori. senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava senza rom, servi di Roma fuori. Vabbè, senza dubbi, ascoltatore contro Varin. Quello lì che è incinta all'albergo, sì. Non ci sa come è morto quel povero ragazzo. Grazie caro, magari si scopre che è stato un rom a buttarlo giù, che ne sai? Non permettere al tirano. No, ma in realtà non era contro Varin. Che cazzo mi avete scritto contro Varin? Cioè, Varin che dice magari quel ragazzo lì è stato buttato giù da un rom. Capisci? Signor Varin cosa ha detto? Che magari il ragazzo quello ancora non è chiaro come è morto, eccetera. Magari, no, ma non mi devi spiegare, perché Varin è il gradino più basso dell'umanità, quindi. E ti cullerà. Ancora ascoltatori, Radio Padania. Dimmi, dimmi. Bella ruffa, però la manderei anche a quei due buffoni lì di Radio 24, però. Ma come si permettono di insultare un popolo come quello lombardo, con la polenta d'aragna, tutte queste cose? C'è gente che lavora 10-12 ore al giorno, c'è la prima regione d'Italia che manda 70 miliardi a Roma ogni anno, che mantengono migliaia e migliaia di parassiti, e questi si permettono anche di prendere in giro un popolo come quello lombardo. Dovrebbero solo stare zitti, stare zitti. Ma chi prende in giro? Ma io abito in Lombardia e sono fiero di abitare in Lombardia. Mi sento molto, ho vissuto 10 anni, figurati. Mi sento più milanese che romano, ma non mi rompete i coglioni, dai, su. Fai sentire quanto è forte la tua voce. Cioè, un altro però dice: mi faccio male, ascolto la zanzara, senti. Nella tempesta, come una madre in fuga. Anch'io mi voglio fare del male da solo, ogni tanto ascolto la zanzara. Ma c'è stato un bellissimo intervento di un signore, non so chi era, con un accento toscano, che diceva: sapete perché ho votato la Lega? Non per Salvini, ma semplicemente ascoltando la zanzara mi sono convinto di votare Lega. Quindi lasciamoli parlare, che ci servono. La libertà. Alessandro da Fermo, Alessandro da Fermo, vai. Salve, salve Parenzo, salve Cruciani. Ciao. Io sono veramente stufo di tutte queste ruberie dei politici. Sì. Tra l'altro ho visto che uno degli inquisiti che hanno arrestato è Gramazio, il padre. No, il figlio, veramente. Figlio. Il figlio è Gramazio, c'è il padre che anche lui è stato senatore, se non sbaglio. Sì, senatore, consigliere regionale, tutto. Politica. Quindi forse. Famoso pinguino, famoso pinguino. Sì, forse, vedi, non sarebbe accaduta questa cosa della discendenza del male, della discendenza delle ruberie, se fosse stata fatta una castrazione chimica. Cioè, i politici quando rubano, quando fanno del male, ecco la cazzata, devono subire una castrazione chimica. Ad esempio, così avremmo avuto solo un Gramazio, ad esempio. Capisci? Alessandro, però mi permetti di dire che questa qua, perché i politici che rubano è una cosa gravissima, cioè, ma è una puttanata pazzesca. Cioè, la castrazione chimica già è dubbia per quello che riguarda la pedofilia, i reati sessuali, eccetera. La propone la Lega, ma bisogna vedere se in realtà produce effetti o è semplicemente una. Beh, alcuni addirittura la chiedono in maniera volontaria, no? Gli stessi che commettono i reati. No, ma per i politici, ma di che parli la castrazione chimica? Ma immagina quante teste di cazzo in meno avremmo. Quanti discendenti ma non si può, in meno avremmo. Vabbè, dai, Alessandro, io ciao. Credo proprio che bisognerebbe metterla nella Costituzione. Ci manca solo la Costituzione e la castrazione chimica. Ciao. Allora, c'è un signore, caro Parenzo, l'altro giorno mi è venuto in mente, perché è stato cacciato dall'ordine degli psicologi. Adesso torno su questa cosa dei gay, perché questo signore qua sostiene davvero che si possono curare i gay, e che lui da psicologo, se qualcuno gli chiede sono gay, mi puoi curare? Dice sì, certo. Si chiama Tiziano Tubertini. Io proverei a pizzicarlo, è di Imola. Pronto? Sì, buonasera, Tubertini? Sì, buonasera. Salve, sono Cruciani, come sta? Piacere di conoscerla. Come va? No, benissimo, mi sono cavato un peso che lei non ne ha neanche un'idea, guardi. Di non essere confuso con tutti gli altri, sta benissimo, non pensavo, non sapevo, lo facevo prima. Cioè, in che senso? È felice di essere stato cacciato dall'ordine dei psicologi? Benissimo, felicissimo, non mi voglio confondere con quella gente lì. Che gente è quella? Gente falsa. Perché falsa? Perché mentono sull'omosessualità e tutto il resto. voglio dire, l'omogenitorialità è delinquenziale, secondo me. È delinquenziale il fatto che ci sono dei bambini che non si possono identificare con un genitore del proprio sesso, cioè l'identificazione è la base della psicanalisi. No, scusi un attimo, però io vorrei capire, secondo lei, quando uno è omosessuale, è un po' malato? Come diceva Freud, non sono normali, non sono malati, ma non sono neanche sani. Lo diceva Freud, non lo dice Tubertini, un povero idiota, capisci? Ecco, se questo è giusto, questo è vero, povero idiota, questa è l'unica cosa giusta che lei ha detto negli ultimi secondi, diciamo. Quindi lei mi ritira un cavolo di diavolo, mi fa piacere. Io non ho capito una cosa, lei dice i gay, omosessuali, vabbè, lei poi ha fatto questa distinzione, non sono malati, però non sono nemmeno sani. Che vuol dire che non sono nemmeno sani? Perché hanno una inversione genitale, come la chiama Freud. Una inversione genitale. Lo sa che cos'è l'inversione genitale? No, me lo spieghi. La genitalità, che Freud. L'inversione genitale, Freud ha spiegato benissimo gli stadi dello sviluppo sessuale. Se te ti fermi prima della genitalità, che vuol dire genitorialità. No, ma secondo lei, avendo una inversione genitale, cioè essendo degli invertiti in sostanza, no? Ma non per offendere, no, per offendere, lei dice un dato di fatto. È un dato di fatto che si possono curare? No, è difficilissimo curare, è praticamente impossibile, a meno che non lo vuole proprio, ma ce ne vuole. Io non ci ho mai provato, però. Però scusi, lei è stato accusato anche di essere a favore delle teorie riparative. Io non voglio che nessuno mi dia degli ordini. Se un omosessuale mi chiede una terapia riparativa, io gliela faccio, va bene? Oh, e in che consiste questa teoria riparativa? La terapia riparativa, come dice Freud, è portare le persone alla bisessualità al massimo. Portare le persone alla bisessualità. Secondo lei una famiglia tra due uomini e tra due donne è impossibile? È oscena. Ma c'è, esiste, è una realtà che c'è, vabbè, in cui... Se ne frega se esiste, anche il cancro esiste, allora cosa devo fare? Devo mi pare farlo. Un paragone che conferma il buon provvedimento preso dall'ordine. Cioè, secondo lei la... Se lei paragona la famiglia omoaffettiva al cancro, con tutto il se lei paragona la famiglia omoaffettiva... elementari, io non sto paragonando il caso, come no? Sto dicendo che la scientificità non si basa sui voti, si basa sulle computazioni scientifiche, ci capiamo? Parliamo come mangiamo, la famiglia tra due froci e due lesbiche è una cosa oscena, giusto? Oscena, cioè una cosa che dovrebbe essere... Anche single che fanno figli, vabbè, comunque lo siamo per pagare le famiglie, sì. Ma in che senso i singoli che fanno figli? Allora, io sono contro la tecnogenitorialità, come la chiamo io, cioè quelli che ricorrono a uteri in affitto, prima di tutto sono etero, tanto per cominciare, poi sono single e in ultima istanza sono gli omosessuali. Adesso gli uteri in affitto sono famosi per gli omosessuali, ma non me ne frega niente, ma se sono famosi su quegli omosessuali. Non solo. Io sono contro la genitorialità oscena che è gli uteri in affitto, che è una schifezza disumana. Ma scusi un attimo, Mi ricorrono più di etero, a cominciare da quella negra là americana, Oprah Wilson, come si chiama, quell'altro rospo che faceva Kansas City, che sono dei corsi, per mantenere la loro bellezza. Sa che bellezza quei due rospi lì? Ma chi sono i rospi? Oprah Wilson, quella famosa americana là, come si chiama, quella presentatrice tipo Costanzo, guarda noi, no? E quell'altra è quella che faceva Sex in the City lì, quel rospetto lì magro, sifilitico, ce la porta a rubare giusto uno disperato, guarda lì. Sarà bello lei. Mi fa anche un po' ridere, devo dire la verità. Me la cavo, nella mia vita me ne sono cavato delle volte. E secondo me lei è un po' frocio. Sì, sicuramente, gli va l'incontro, questo me lo dico con tutti, lo dice anche mia moglie, a dire la verità. Secondo lei è un po' omosessuale, un po'... Anche la moglie. Lo psicologo omofobo, lei è un po' omofobo, lo ammetta, sono omofobo. Omofobo, no, non so, io gli voglio bene agli omosessuali, però non odio i gay. Vabbè, odio i gay, d'accordo, odio i gay, odio i gay, ma è la stessa cosa omosessuale gay, è uguale. No, non è uguale, perché tra Dolce & Gabbana e Elton John c'è un bel cazzo di differenza. Io a Dolce & Gabbana ci vado fuori stasera, ci vado anche a letto a Siena con Dolce & Gabbana, va bene? Ma adesso a letto sono loro che non... Scusi, però una cosa, lei ha detto a qualcuno, vi vengo a cercare o finanzio skinhead che vi massacrino, mi sono spiegato? Vabbè, sì, ho capito. Allora, tutte le accuse sono enucleate, no? Lei ha detto, vi mando gli skinhead a picchiarvi. Sono tutte decontestualizzate di discussioni che andavano avanti da un pezzo. Allora, siccome io le guance le ho finite, quando te mi dai uno schiaffo nell'altra guancia, io te lo mollo indietro. Io voglio capire una cosa, noi stiamo diventando tutti froci, secondo lei? Cioè stiamo diventando una società... La omosessualizzazione della società, sì, questo amore liquido è una forma di omosessualità... ma non è, come dire, sì, l'amore liquido è una forma di omosessualità diffusa. Dal momento che si separa il sesso dalla procreazione è già finita, automaticamente il sesso diventa un gioco e quindi è come l'omosessualità. Non c'è ma perché gli omosessuali fanno sesso solo per giocare? Fanno i figli? Vabbè, che c'entra? Scusi, no. Ma che vuol dire? Anche uno può fare le due cose insieme, spesso si diverte, nello stesso tempo fa i figli, potrebbero adottarli. Ma neanche, io ritengo ancora valido che l'omosessualità sia un disturbo della personalità, visto che nessuno l'ha mai sconfessato. Oh, disturbo della personalità. Dunque, secondo lei si nasce gli omosessuali nascono disturbati? No, non si nasce disturbati, è solo una questione di ambiente. Sono una questione di ambiente. Sarà un aspetto epigenetico, può darsi che ci sia una predisposizione genetica, questo non lo so. Però di certo l'ambiente è determinante. Se viene un omosessuale da lei e dice io non mi sento bene a essere così, voglio essere curato, lei che fa? Io non ho nessun desiderio, allora sei uno psicanalista da far schifo se io avessi dei desideri sui miei pazienti. Io sono lì per fargli partorire i loro desideri, non i miei. Vabbè, uno chiede una cosa del genere, lei che fa? Ci sono medicine per curare? No, ma che medicina? Al limite potremmo provare a parlare, però spero che non venga, sinceramente. Io diventare scemo per uno... Che ne so, magari gli dice, magari gli dice di andare a donne, di andare a prostitute, che ne so. Cioè, a parte che secondo me se lui sta bene così può benissimo continuare a farlo omosessuale, che non fa certamente più schifo di quello che ho fatto io quando avevo la sua età. Mm. Solo che io l'ho fatto con delle donne, lui la fa con degli uomini, sai, a me cosa me ne frega. Lei ha fatto lo schifo io quando ero scapolo. Quando era scapolo avrà trombato, scusami. Il più possibile. Vabbè, comunque uno degli ultimi giapponesi, perché in Italia fra poco verranno approvate leggi, eccetera, eccetera. Infatti voglio parlare adesso mal più, è come il matrimonio, no? Chi vuole parli adesso mal più, dopo sto fitto. Ciao Tiziano. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Mi segnalano che hanno chiuso la pagina Facebook per fortuna di Andrea Di Pre, forse, per fortuna, per passare da pazzi a pazzi, anche se questo qua non era pazzo del tutto, ha delle idee un po' bizzarre sui gay, però non era del tutto pazzo. Anna Maria ci chiama da Roma, vai Anna Maria. Buonasera. Dimmi. Interessante, sentivo tutte le discussioni, ci sarebbe da parlare su tutte e tutto. Dimmi. Io ho chiamato per la questione del scambio di coppie, eccetera, dei rapporti. Mi sono messa un po' a ridere, la verità, mentre sentivo. Perché ho fatto una riflessione. No, non è perché ti voglio criticare, ognuno è libero di fare quello che... Io sono per la massima libertà. Però una riflessione la devo fare. Perché se... Io lo dico perché l'ho vissuto io in prima persona. Cioè, se uno trova una persona veramente con la quale stai veramente bene, non vedi altro. E se lo dico per cognizione di causa. Ma non è vero, non è detto. Brava, è giusto. Ma chi l'ha detto? Ma guarda. Prima di incontrare questa persona ho avuto varie esperienze, te lo dico io. Vabbè. Però è una donna, è una signora, una ragazza saggia. Sì, questa. Ma adesso la cosa è ridicola, che parenzo... Ma ogni tanto, chi mi conosce, lo sai che cosa mi ha detto? Anna Maria, ti ho avuto la fortuna di avere una cosa che c'è gente che nella vita vive una vita e non ha mai. Io ho avuto la fortuna veramente di incontrare un uomo, purtroppo l'ho perso 2 anni fa, 20 anni insieme. Parenzo Paladino della monogamia, è ridicolo, Marco da Firenze, no, dai. No, ma non dico questo. Sei dico ridicolo, Marco da Firenze, il dai. Il lirismo ma che sì, c'è. Va bene, Marco da Firenze, dai, sì, il lirismo, poi c'è la pratica però, Marco, vai. Buonasera a tutti, dimmi. È un piacere parlare con voi, no, nulla, sono veramente... Come posso dire, come fa Parenzo per quanto concerne il discorso di quella persona che ha chiamato in precedenza, che tutti sabato sera va in un club privé? Ma che club privé? Organizza le feste di scambi, dai, su. Allora? Sì, infatti, ecco, a me la cosa che mi veramente ha infastidito è il suo collega che gli ha dato di pervertito. Ma lui sa che cosa significa in italiano pervertito? Lo sa lui. No, andiamolo a cercare, pervertito. Pervertito, dice, forse cercavi, come si chiama lei? Sì. pervertito, pervertito. Ecco, viene fuori Marco, pervertito, dice forse cercavi Marco. Che è cambiato in peggio. No, ma guarda ragazzi, c'è la definizione sui dizionari, comunque. Dai, leggila, leggila. No, è ormai è tardi, non la senti sto cazzo la musichetta che mi rompe i coglioni, cioè non la senti sta musichetta che mi rompe le balle. Perché se la musichetta, leggi la definizione di pervertito. No, ma è una definizione lunga, è lunga. No. Chi è affetto da perversione sessuale e poi con le varie specificazioni. Vabbè, Marco, ci sentiamo domani a 18:30 che mi scassano la minchia qua. Ciao. Ah, vi ho beccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché non ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con l'informazione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Quando vogliono chiamarmi, lo trovano su internet, il mio numero è 347-360-3084. Radio 24. La passione si sente.